È vero o no che lei è più berlusconiano e Feltri meno berlusconiano e per questo voi avete sostanzialmente litigato esatto. O no? No, guardi, questa è un'altra, sarebbe un'altra cosa da ordine dei giornalisti, perché io e Feltri, pur essendo abbiamo in comune con Berlusconi una cosa assoluta che è l'eterosessualità, ma abbiamo un rapporto affettivo personale e professionale come credo sia difficile trovare. Cioè se lei se Feltri dovesse andare via dal giornale, lei lo seguirebbe? Ma stiamo parlando di un'ipotesi che non è all'ordine del giorno, siamo dei liberi professionisti, siamo dei professionisti. Lo dice Feltri oggi in questa intervista, in realtà che è all'ordine del giorno. Ma ripeto, Feltri ha ripetutamente delle offerte da parte di altri editori, ogni volta le valuta come qualsiasi professionista, un calciatore, un manager, una star, valuta cosa fare. Quando lui dice, Feltri, ci si rompe le balle di tutte le veline di Berlusconi, lei condivide? Beh, questo assolutamente abbastanza, cioè, dire, non è divertente né particolarmente interessante occuparsi tutti i giorni di veline e veloni.